Ritrovati e ben ritrovate a La Fuga del Gatto del 2018, prima puntata di questo nuovo anno che inauguro da sola perché l'inverno ha mietuto vittime e la Virgi è tra queste, quindi giace in un letto di angosce e febbri e quant'altro. Peste, colera e così, e quindi non può essere dei nostri, ma ci sono io e siccome come sempre quando mi lasciano da sola strabordo faccio un po' così, allora ovviamente gliene do di barocco e ovviamente vi tocca delle baroccate, d'altra parte se mi lasciano da sole io poi mi allargo. Oggi però vi tratterò bene perché la puntata che ho preparato secondo me è modestamente piuttosto interessante, perché si tratta di un personaggio che andiamo a indagare seicentesco, pieno 600 siamo in Italia, un personaggio che però tra gli appassionati di musica antica e barocca sicuramente è uno degli esponenti maggiori, è super conosciuto, ma negli altri ambiti è un personaggio meno conosciuto, anzi probabilmente abbastanza ignorato. Parleremo di Barbara Strozzi, una donna, e proprio perché donna se ne sa pochissimo, anche se rispetto alle altre donne musiciste se ne sa già un bel po', perché in effetti poi lo vedremo, Barbara Strozzi fu una delle compositrici più prolifiche del suo tempo, non soltanto all'interno della categoria femminile, ma anzi anche della categoria di compositori in generale. Scrisse veramente un quantitativo di arie e cantate notevole. E quindi, insomma, non era appunto una compositrice così che marginale, ecco, nel suo tempo, anzi, fu piuttosto importante. Nonostante ciò, appunto, non si poteva evitare, evidentemente, di parlarne, era troppo ingombrante, ma in ogni caso se ne sa comunque poco, perché delle compositrici, stessa cosa si potrebbe dire anche delle pittrici, anche nelle altre arti non è che si andasse tanto meglio, perché anche la povera Artemisia Gentileschi un po' se ne sa anche soprattutto dei suoi dettagli biografici più pesanti e più grossi, ma insomma rispetto ai suoi contemporanei colleghi, diciamo così, maschi, ecco, effettivamente se ne sa molto poco, perché proprio si sono persi dettagli biografici. Ad esempio, a partire proprio dalla nascita, Barbara Strozzi si sa che è nata a Venezia e che è morta a Padova. Della data di morte siamo sicuri, si parla dell'11 novembre 1677, della data di nascita si inizia ad avere qualche dubbio, perché abbiamo un certificato di battesimo, comunque delle memorie sul battesimo, che è avvenuto il 6 agosto del 1619, quindi insomma si sa che più o meno nacque intorno a quella data, quantomeno quell'anno, insomma, presumibilmente. Si sa che appunto è stata una compositrice, musicista, anche un'ottima musicista di viola da gamba e di vari altri strumenti, e anche e soprattutto una cantante, una soprano, scriveva essenzialmente per voce, essendo lei principalmente una cantante, almeno all'inizio. Poi in realtà, lo vedremo, i suoi brani, le sue composizioni non sono importanti unicamente per la voce, cioè non è soltanto l'ambito vocale quello che la rende poi interessante, bello e tutto, ma è anche il resto, proprio la composizione musicale che ci sta sotto. Effettivamente, essendo collocandosi la sua vita proprio dentro il 1600, si può dire che di fatto è stata un esponente in pieno della musica barocca e riprende, poi lo vedremo meglio, alcuni stilemi, alcuni cose classiche, diciamo, dettate dai musicisti che venivano prima di lei, primo fra tutti Monteverdi, e che avevano evidentemente fatto scuola in quegli anni, e lei li riprendeva e li metteva all'interno delle proprie opere, facendole sue e aggiungendo la propria sensibilità e la propria maestria. Ma i dettagli biografici che si sanno ancora di lei, sebbene pochi, un po' ce ne sono, era che ad esempio fosse la figlia adottiva di Giulio Strozzi, giudice, poeta e librettista. Giulio Strozzi molto probabilmente, siccome appunto non se ne sa molto, ma basta fare uno più uno, la adotta perché molto probabilmente in realtà era la sua figlia illegittima, avuta con Isabella Garzoni, soprannominata la Greghetta, che era, cioè che lavorava e viveva nella casa appunto di Giulio Strozzi. Quindi, insomma, una classica storia dove poi alla fine Giulio Strozzi però si è anche accollato di adottarla in qualche maniera. E andò oltre in realtà, perché oltre ad adottarla, decise che Barbara sarebbe stata la sua unica erede. Questo solo nel caso che lui fosse sopravvissuto alla madre di Barbara, Isabella Garzoni. Questo è abbastanza interessante come dettaglio biografico, perché insomma, nominare come unica erede una donna non era proprio usuale al tempo, sebbene a Venezia, dove la storia è ambientata, non era, cioè era in realtà anche abbastanza usuale, non tantissimo, ma insomma un po' sì. Quindi si trattava di una possibilità notevole per una donna del tempo di avere a disposizione sia nel momento in cui il padre era in vita, ovviamente godere degli agi di una famiglia piuttosto ricca, ma anche e soprattutto quando il padre morì, ereditò, no, oltretutto poi vedremo il nome del padre, nel senso che il padre era un musicista molto stimato e quindi in qualche modo le passò il testimone e insomma le passò anche dei soldi che le permisero di boh, a tirare avanti. Poi vedremo, in realtà Barbara Strozzi non ebbe grande fortuna e in ogni caso morì tra gli stenti, in una vita non agiatissima, ecco, però sicuramente per come era iniziata poteva andargli molto peggio, ecco, diciamo così. Questi piccoli primi dettagli biografici fanno un po' da apripista per il primo brano che ci andiamo ad ascoltare, della durata di circa 10 minuti, che è Lagrime mio. Un inizio quasi, quasi orientale, con delle scale anche strane per l'epoca, almeno secondo me. Eseguito dall'ensemble Galilei, non mi sono segnata la soprano che lo esegue, pazienza, andremo così un po' a casaccio e questo appunto è Lagrime mie. Thank you. giusto per entrare subito nello spirito e farvi capire di cosa stiamo parlando. Questa era una cantata di Barbara Strozzi, appunto Lacrime mie. E tra l'altro, tra i dettagli biografici, che appunto non ce ne sono tantissimi, come dicevamo, però si può un po' evincere la sua vita e le sue vicissitudini da alcuni scritti trovati, tra cui dei resoconti, diciamo così, di queste veglie dei signori accademici unisoni, che era l'Accademia degli Unisoni, era un'accademia fondata dal padre, accademia musicale ovviamente fondata dal padre di Barbara, a casa, che erano delle veglie dove essenzialmente si faceva musica con vari musicisti che c'erano in Venezia, avevano luogo a Venezia a casa di Giulio Strozzi, appunto di Giulio e di Barbara anche in qualche modo, e c'era evidentemente la tradizione di resecontare cosa avveniva durante queste veglie, e tra le varie cose si scherzava, c'erano grandi risa su episodi, su questo, su quello, si scherzava su gli ospiti, su chi l'ospite invece di casa, su un po' tutto. E in questi resoconti si parla molto di Barbara, che al tempo non era neanche così grande, insomma, era la figlia. Ora non ho ben presente di preciso che età avesse, ma insomma mi aspetto dall'adolescenza in su, diciamo, perché ancora viveva con il padre. E comunque, nonostante lei di fatto componesse su essenzialmente scritti del padre, insomma, già fosse un'ottima musicista, comunque era nota un po' come la portafortuna, la mascotte, la figlioletta, sì, queste cosette, queste bimbe che si dilettano con la musica, che carine, divertenti. E in effetti era un po' la portafortuna, sì, della compagnia, ecco. E in questi resoconti si parlava di lei in questi termini. E però al tempo stesso, se da un lato la si vezzeggiava in maniera anche affettuosa, gli si dedicavano questi resoconti, gli si parlava un sacco di lei e tutto quanto, però in realtà con questa modalità molto tipica da un lato ti elogio, dall'altro di fatto insulto, dal tempo stesso. Stesso in contemporanea si scherzava in maniera veramente feroce su di lei. Ad esempio, erano grandi le risa sul fatto che lei non sulla sua presunta mancanza di castità. E quindi sì, da un lato era la portafortuna qua e là, però dall'altro era un po' la cortigiana, quantomeno, o in ogni caso la donna di malaffare, comunque un po' troppo allegrotta, ecco, sicuramente non pia, non empia, cioè empia anche perché sicuramente tutti sapevano la storia che aveva portato Giulio ad adottarla, insomma, quindi già era una figlia illegittima, si presuppone che siccome la madre non è una pia donna, figurati la figlia, e via, e via, e via. E quindi grandi risa, grandi scherzi. E quindi si parlava di lei non tanto per il fatto che sapesse comporre delle cose incredibilmente belle, ma così, un po' come personaggio divertente per passare il tempo. Tra le varie frasi c'era, ad esempio, bella cosa donare i fiori dopo aver dispensato i frutti. Oppure varie dissertazioni sul ah sì, il professore, il professare e l'essere sono termini differenti, tuttavia io anco la vedo castissima, mentre potendo e come femmina e come educata in libertà passarvi il tempo con qualche amore, ella nondimeno impiega tutte le sue affezioni in un castrato. Quindi si sì, faceva un gran parlare anche sui gusti di Barbara Strozzi, su cui, con chi preferiva passare il tempo, eccetera, eccetera. E che però di fondo, se da un lato ci suggerisce un bel po' sui personaggi che parlavano di lei, insomma, sulla loro qualità, diciamo così, però ci suggerisce anche molto dei dettagli biografici della vita di Barbara Strozzi, perché probabilmente si tratta di una donna che, sì, si faceva un gran parlare di lei, ma in ogni caso, quantomeno lei era libera di scegliersi, le persone, gli uomini con cui passare il tempo, non era obbligata dalla famiglia, a prendere una via, a sposarsi subito e sposarsi con chi voleva la famiglia. Insomma, erano tempi in cui le cose erano abbastanza rigidine e lei probabilmente invece aveva qualche libertà in più, cosa non da poco. E altra cosa che possiamo dedurre probabilmente da questi scritti, ma non solo, è che di fatto poi effettivamente Barbara Strozzi arrotondasse un po' il misero stipendio, diciamo così, di musicista con la professione della cortigiana, come veniva definita al tempo. Cortigiana probabilmente di alto bordo, che però comunque sia, beh, molto probabilmente faceva, cioè, era un po' così. E anche se effettivamente è molto difficile definire bene, questa cosa, perché sicuramente appunto la cultura e la musica non permetteva, cioè non è che ci si potesse campare, perché invece adesso è proprio una favola, però ecco, anche al tempo soprattutto, cioè una donna che faceva la compositrice, boh, diciamo che finiva in miseria e quindi per forza di cose doveva arrotondare. E probabilmente un po' c'era questo, un po' c'era il fatto che, boh, che i suoi gusti e la sua indole la portava a non volersi ma sposare, perché di fatto Barbara Strozzi non si sposò, e ebbe quattro figli, lo vedremo poi in seguito, senza mai sposarsi, cosa abbastanza strana, insomma. Anche se non rarissima, però insomma non neanche così frequente. Si mantenne in qualche modo da sola, ebbe diversi amanti. I tre dei quattro figli erano di questo Giovanni Paolo Widmann, un altro musicista con cui Barbara ebbe una lunga relazione, che però appunto non finì mai nel matrimonio, probabilmente per scelta anche di lei, e poi comunque l'altra figlia invece era di la storia con un altro uomo, insomma una vita relazionale che nel 600, beh, insomma, interessante, ecco. Dopo tutti questi pettegolezzi su Barbara Strozzi, che comunque ci servono a contestualizzare un pochino e farvi capire che personaggino dovesse essere, ci ascoltiamo un altro brano, questa volta un po' più breve, sono solo 4 minuti, si intitola Miei pensieri. Questa volta l'ensemble è Bizzarrie Armoniche e so anche il nome del soprano, che è Roberta Invernizzi. Miei pensieri che mi provate, cessate, desolate perché mi dà. La fama di cortigiana, diciamo così, di Barbara Strozzi si deve, oltre a queste dicerie, pettegolezzi e tutto questa ciana che veniva prodotta intorno a lei, ma si deve soprattutto, soprattutto non lo so, però ecco, diciamo che ad oggi ci viene un po' confermata da un dipinto, un ritratto che questo pittore ed ex frate, tra l'altro, fece di lei, e fra l'altro pittore che si chiamava Bernardo Strozzi, ma che non aveva nessuna parentela con gli Strozzi di cui stiamo parlando oggi. Ha detto il cappuccino o il prete genovese, e la dipinse tra il 1635 e il 1639. E in questo dipinto, che poi è il dipinto, beh, penso forse l'unico che ci è arrivato di Barbara Strozzi, che poi è quello che trovate ovunque se cercate sull'internet Barbara Strozzi, trovate questo dipinto di lei, che insomma effettivamente la ritrae come un bel tipino, perché c'è lei con sti capelli tutti un po' da pazza, con tutti i riccioli o comunque i capelli tutti un po' cotonati, tirati su come se si fosse appena svegliata, e una viola da gamba in pugno brandita un po' come con un mattarello, e un seno scoperto, quindi, e tra l'altro una faccia insomma abbastanza tra l'arrabbiato e il ora vengo lì e vi faccio un culo così, e il malinconico, il comunque boh, ne so un sacco più di voi, venite qui e dimostratemi il contrario. Quindi un personaggio piuttosto buffo, ecco, interessante, diciamo così. E questo dipinto probabilmente coglie in pieno quello che era, o perlomeno così è arrivata fino a noi. E, sicuramente, ecco, non sarebbe stato possibile dipingere un personaggio che comunque nella cultura dell'epoca era molto famoso. in questa maniera, in questi termini poco decenti, giudicati poco decenti, se poi non fosse stato vero che effettivamente, o non fosse stato perlomeno risaputo da tutti che effettivamente Barbara Strozzi era musicista, sì, ma anche forse probabilmente orgogliosamente anche cortigiana, chissà. In ogni caso, questo dipinto ricorda parecchio l'autoritratto di Artemisia Gentileschi, contemporanea a Barbara Strozzi, quindi e probabilmente figlie del loro tempo, o il loro tempo è in qualche modo derivato da loro, chissà, forse entrambe le cose. La famiglia Widmann, che Widmann ve lo citavo, appunto Giovanni Paolo Widmann, uno dei compagni di più lunga durata di Barbara Strozzi, la sua famiglia riconobbe i figli di Barbara e provvide di dote le due figlie per farle entrare in un convento, nel convento di San Sepolcro, e lì, che bello. E invece diede un'eredità a uno dei due figli. L'altro figlio invece di Barbara Strozzi, non avuto con Giovanni Paolo Widmann, entrò come monaco nel convento di San Servolo, che chissà dov'è, però c'è un nome già promettente. Dicevamo all'inizio che Barbara Strozzi fu allieva del padre, ma anche di Marcantonio Cesti e di Francesco Cavalli, che al tempo era piuttosto famoso. Tra il 1635 e il 1636 cantò dinanzi a svariati letterati veneziani Le bizzarrie poetiche, che erano due volumi di canzoni composte da Niccolò Fontei. Quindi, insomma, prima di diventare compositrice era anche un'ottima esecutrice, insomma, anche piuttosto rinomata, perché si poteva esibire davanti a cenacoli piuttosto altolocati. Nel 1637, come dicevamo all'inizio, il padre fonda l'Accademia degli Unisoni. Barbara Strozzi entra come membro a tutti gli effetti, non soltanto come allegra mascotte, e inizia a recitarci e cantarci i propri lavori. Sostanzialmente lei, come dicevamo, compone musica partendo dai testi scritti dal padre. Poi a un certo punto il padre muore e lei chiaramente si dovette dar da fare con quello che aveva e decide di iniziare a cercarsi da sola i librettisti, o comunque cercare un po' in giro chi scrivesse testo per le sue composizioni. Non solo, cercò anche di industriarsi in qualche maniera per trovarsi mecenati o personaggi famosi, altolocati, ricchi e potenti a cui dedicare le sue composizioni, che poi era il modo per ottenere 2 lire per camparsi. Poi lo vedremo, insomma, le dediche furono un bel po' e di mecenati ne trovò abbastanza. Compose fondamentalmente per se stessa, nel senso che lei, essendo una soprano, componeva cantandoci sopra, quindi componeva per la sua stessa voce. Quindi è interessante perché, un po' come Handel anche, che oltre a essere un compositore famosissimo, era anche un cantante, quindi sapeva cosa stava scrivendo quando scriveva la parte canora. Anche lei, anche Barbara Strozzi, di fatto componeva parti strumentali interessantissime che però anche nella parte vocale avevano insomma, si vedeva che sapeva di cosa stava parlando, ecco. Per la parte strumentale, invece, quella che diciamo la prassi che prediligeva era quella a 3 parti, ovvero 2 strumenti melodici e basso continuo. Strumenti melodici che cambiano, possono essere il flauto, la viola da gamba, vari altri, il liuto, insomma, vedremo. E poi niente, le composizioni sono interessanti anche perché sono cantate quasi tutte, però ci sono delle parti quasi recitate, lo sentiremo poi nell'ultimo brano, che insomma si iniziava a sentire un po' gli echi anche monteverdiani delle prime opere, quelle che poi sono state le prime opere liriche, appunto. E prendeva l'esempio, appunto, come dicevamo, di Monteverdi, un po' volendo, la enfatizzava e l'arricchiva con tutta la parte canora di cui lei, appunto, era molto, molto consapevole, che teneva, a cui teneva molto. Quindi, in realtà, la parte maggiormente enfatica è quella, cioè è affidata alla voce. La voce è sempre drammatica, sempre recitante, è un qualcosa di che interpreta, non può essere cantata così, senza pensarci, perché è un po' quello che regge tutto quanto. Ma sotto c'è una musica intarsiata meravigliosamente che poi porta a creare dei contrappunti, delle armonie con la voce veramente, veramente impressionanti. Queste che ci sentiamo adesso sono due piccole cantate. Una, la prima, sono un po' a dispetto di quelle che abbiamo sentito finora, che erano un po' più drammatiche, avevano anche un po' le tematiche classiche della lamentazione femminile per l'amore che se ne va o che la fa tormentare. Qui abbiamo due cantate piuttosto buffe, atipiche. Una si chiama La Vendetta, composta sempre a Venezia, appunto nel 1651, dal libro di Le cantate, ariette, duetti, l'opera 2, e la seconda invece si intitola Amor Dormiglione. Anche questo è, beh, La Vendetta. Ora vi leggo il testo e direi che parla da solo. La seconda è un testo piuttosto buffo di una donna che cerca disperatamente di risvegliare il proprio amato che non ne vuole sapere, sta a letto e vuole dormire e lei invece non vorrebbe dormire. Quindi qui io in qualità di grande pigra mi sento tirata in causa e quindi vabbè, Barbara Strozzi mi avrebbe odiato probabilmente. E invece La Vendetta dice così: il testo è brevissimo, posso leggervelo. La vendetta è un dolce affetto, il dispetto vuol dire. Dispetto vuol dispetto, il rifarsi è un gran diletto. Vane sono scuse e ragioni per placar donna oltraggiata. Non pensar che ti perdoni. Donna mai non vendicata, pace in bocca e guerra in petto. Non perdona in vendicarsi all'amante più gradito che l'adora e vuol rifarsi quando il fiero insuperbito verso lei perdi il rispetto. Per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me, Dormiglione. E alla Strozzi sono state attribuite 8 collezioni di brani musicali, la quarta è perduta, ma si pensa sia stata fosse dedicata al Duca di Mantova. Tutte le altre, insomma, tutte sono dedicate nel frontespizio a mecenati e protettori diversi, come dicevamo prima. Di fatto, Barbara Strozzi, per numero di composizioni, è stata la prima compositrice di cantate di tutto il Seicento e non aveva un committente fisso, appunto, si doveva un po' procacciare i committenti via via, libro per libro. Nel 1644 pubblicò il suo primo libro di madrigali per 2 fino a 5 voci, cioè da 2 a 5 voci, ecco, e dedicato a Vittoria della Rovere, granduchessa di Toscana, con i testi del padre, di Giulio Strozzi. Nel 1651 invece uscì il volume di cui parlavamo prima, Cantate, Arie e Duetti, che era dedicato a Ferdinando III d'Asburgo e Eleonora Gonzaga Nevers. In occasione del matrimonio, del loro matrimonio. E poi c'era un terzo volume, 11 cantate, ariette a 1, 2, 3 voci del 1652. Il quarto volume invece, appunto, è andato perduto. Il quinto è una collezione di musiche sacre, sacri musicali effetti del 1653 con 14 composizioni dedicate ad Anna d'Austria, che era la reggente di Francia fino al 1651, ma in realtà era ancora potentissima sia sulla scena nazionale che internazionale. E poi il sesto volume del 1657 e il settimo del 1659 sono invece collezioni di cantate aria a una sola voce. L'ottavo invece è intitolato Arie. Poi ci furono altre composizioni che non erano dentro dei libri precisi, ma furono inglobate in antologie pubblicate dopo, nella seconda metà del Seicento. E quindi, beh, diciamo che è interessante perché è difficilissimo trovare composizioni di donne che sono sopravvissute per tutti questi secoli. Lei forse è uno degli esempi più felici da questo punto di vista, perché molte altre cose si sono andate perdute. Diciamo che in totale in vita Barbara Strozzi pubblicò 125 brani di musica vocale. Lei, come dicevamo prima, si spense, morì a Padova nel 1677, tutto sommato nell'oblio e nella miseria, se non proprio miseria, comunque sia neanche messa benissimo. Questo pezzo che ci andiamo a ascoltare ora, che è il penultimo brano della giornata, è un brano meraviglioso, si intitola L'Eraclite, scusate, L'Eraclito amoroso, ed è veramente, secondo me, bellissimissimissimo, in questo caso interpretato da Filippo Jaroschi. Oh, Dio, nell'adorato e bello. Io in genere a questo punto prendo e ricomincio da capo l'ascolto del pezzo fino a che non mi sanguinano le orecchie, ma mi rendo conto che non posso farvi subire questa cosa anche a voi e quindi ci fermiamo qui, ce lo facciamo bastare e se siete malati come me ve lo riascolterete da soli, ecco, nella vostra cameretta. Questo era appunto l'Eraclito amoroso di Barbara Strozzi nella versione secondo me meravigliosamente interpretata di Philippe Jaroussky e anche la prossima è interpretata sempre da questo controtenore. E la prossima è in particolare come canzone, come cantata e quindi vale la pena di parlarne un po' più nel dettaglio. E è l'ultimo brano tra l'altro che ci ascolteremo e vi dico subito che è stato difficile trovare questa versione registrata ed è brutalmente interrotta alla fine. E in parte devo dire che anche nell'originale anche l'originale si interrompe bruscamente, ma non così bruscamente come in questa versione che palesemente è stata tagliata, però d'altra parte valeva la pena per il resto del brano. Allora, il brano in questione è Sul Rodano Severo, della durata di circa 11 minuti, sempre di ovviamente Barbara Strozzi, ed è una cantata che racconta, è un lamento di fatto, un lamento sull'esecuzione capitale, è un fatto veramente avvenuto, l'esecuzione capitale è avvenuta a Lione nel 1642 di Henri de Fia, marchese di Saint-Marc. Esecuzione avvenuta per ordine di Luigi XIII e questa esecuzione era appunto ai danni di Henri de Fia, come dicevamo, che era gran scudiero di Francia nonché amante dello stesso re Luigi XIII. E, diciamo che la storia è un po' dubbia. Si parla del fatto che questo amante di re Luigi XIII si era un po' montato la testa per i continui privilegi che riusciva a ottenere dal re e pare che volesse prendere, aveva cercato di prendere il posto del cardinale Richelieu, che era stato il suo tutore e peraltro era colui che a 18 anni l'aveva spinto tra le braccia del re, sperando di poter in questa maniera controllare ancora meglio il re attraverso il suo toy boy che aveva in qualche modo allevato. Però quando poi si accorge che il ragazzo ormai 22enne in qualche modo stava giocando da solo, si era un po' emancipato e aveva deciso di fregarlo, Richelieu inizia a ostacolarlo. Da qui la decisione di Saint-Marc appunto di Henri Defia, di partecipare a quella congiura un po' pasticciata, un po' insomma venuta male, che puntava all'eliminazione di Richelieu e alla sostituzione del re di Luigi XIII con il fratello Gaston d'Orléans. E tra l'altro puntava alla pace con la Spagna in condizioni comunque sfavorevoli in cambio di una congrua pensione annua per i tre congiurati, tra i quali appunto Cinq-Mars, ovvero Henri Defia. Vennero scoperti dalle spie di Richelieu e i congiurati furono immediatamente processati e giustiziati, ad eccezione del fratello del re, che era un altro dei tre congiurati. Allora, questo è l'antefatto, questo è quello di cui parla l'evento storico, di cui parla questa cantata, ma al di là di tutto, al di là del fatto che stiamo parlando di qualcosa avvenuto circa 10 anni dopo la scrittura di questo brano, insomma, si parla di un evento contemporaneo a tutti gli effetti. Ed è però abbastanza bizzarro e non usuale che la persona che si lamenta, che fa la lamentazione, questa volta è un uomo, mentre nei classici lamenti d'amore del 600 e anche dopo nel 700 è sempre la donna a cantare. Pensiamo anche al lamento di Arianna, insomma, in realtà un po' tutto. C'è questa idealizzazione della donna angelicata che si lamenta per l'amor perduto, per l'amore morto in guerra o morto male o che comunque non la considera più, eccetera. E questo è un po' una sorta di cliché, se vogliamo dirla in termini negativi o di cosa ricorrente, ricorrenza, se vogliamo rimanere un po' più neutri. In ogni caso, qui si parla chiaramente di un amore omosessuale e di un uomo, in questo caso lo stesso re Luigi XIII, che in qualche modo preso da, se non il rimorso, quantomeno la malinconia, la tristezza, si lamenta della uccisione, della morte del suo amato. La storia poi ci dice che in realtà Luigi XIII non pianse neanche le lacrime di coccodrillo che qui vengono descritte, ma in realtà anzi ebbe commenti piuttosto sprezzanti, che probabilmente poi chissà, insomma, c'era rimasto anche un po' male di essere stato tradito, ma in ogni caso, insomma, non era questo personaggio così grondante tristezza e disperazione come invece ce lo descrive Barbara Strozzi. L'evento è questo, l'episodio storico è questo, ma probabilmente Barbara Strozzi coglie l'occasione per parlare di qualcosa chiaramente che travalica i due personaggi principali e che in qualche modo, insomma, ne fa un emblema, ne fa un simbolo. E quindi non è tanto interessante se poi ci fosse una certa aderenza con la verità storica. È più interessante il fatto, probabilmente, che un personaggio, come abbiamo raccontato fino adesso, come Barbara Strozzi, che già aveva i suoi problemini sociali e i suoi stigma sociali, non contenta e senza evidentemente molta paura, decide di narrare un brano che ha per protagonisti due amanti uomini. E tra l'altro, appunto, nel 600 tipicamente non si parlava al di là del fatto che era molto raro sentir parlare così apertamente di rapporti di amore tra due uomini e due donne, ma non si parlava neanche di personaggi reali, cioè generalmente si usava la mitologia, si usavano i classici. Insomma, era tutto molto più facile così. Lei invece sceglie la via decisamente più difficile. Quindi niente, la pu prima pubblicazione musicale di Barbara Strozzi, appunto, come dicevamo all'inizio, del 1644. Quindi diciamo che probabilmente, se facciamo tutti i conti, questa cosa è stata scritta a caldo proprio dopo, boh, meno di 10 anni. E questa è la storia. Quindi ascoltatevi attentamente le parole, che comunque si capiscono. Tra l'altro è un brano molto interessante perché è diversissimo, ha delle complessità notevoli ed è passa da un registro a un altro musicale, non veramente in maniera impressionante. Passa dalla tristezza alla disperazione, e a un certo punto si conclude verso la fine sulla descrizione di questa Senna insanguinata e sconvolta, e dove l'aria in qualche modo impazzisce e tutta Parigi si ferma. E si ferma anche il pezzo in maniera brusca, come dicevamo all'inizio, e il registro musicale è completamente diverso, cambia tantissimo di punto in bianco, cosa anche questa veramente strana per l'epoca. Con questo vi lascio, direi che è tutto per oggi, vi lascio però appunto in buone mani con il lamento sul Rodano Severo di Barbara Strozzi, appunto. Ci risentiamo domenica prossima, sempre intorno alle 18, questa volta spero anche con la guarita Virginia, e sempre ovviamente su Radio Wombat. Ciao ciao! Castigo e degno, ahimè. Thank you. io queste note di voce che perdon so pubblice chiede timoroso timoroso si scuote ed al morto garzon la faccia mentre il re col suo pianto delle sue frette il pentimento accenda tremo Parigi, tremo Parigi e torbido si senta. Il son si è la fenêtre, i grumi di mezzo.